È una batosta che io avevo previsto da tempo e credevo che il risultato fosse questo, perché noi, a differenza di quello che dicono la maggior parte dei miei colleghi del PDL, non paghiamo lo scotto del sostegno al governo Monti, ma paghiamo, semmai, se mi posso permettere di parlare, lo scotto al sostegno del governo Tremonti, cioè la politica economica che abbiamo fatto noi è quella che è stata punita, perché è stata contraria a quella che avevamo promesso. Avevamo promesso meno spesa pubblica, meno debito, più libertà economica, meno tasse, sviluppo dell'economia su questi versanti, e abbiamo fatto esattamente il contrario. E lo abbiamo fatto troppo a lungo perché potessimo ancora essere credibili. Il progetto originario rischia di perire sotto queste macerie, dice l'onorevole Straguadagno, una versione che però non è condivisa da una parte della base. A Como il vice coordinatore del partito è Patrizio Tambini. Sicuramente l'appoggio e il sostegno al governo Monti, che il PDL ha dato responsabilmente per le motivazioni che tutti sappiamo, eccetera, che però è andato a incidere pesantemente in termini di non solo di tassazione, ma di situazione su quella parte del paese che era un po' l'ossatura del nostro elettorato. Pensiamo alla patrimoniale chiamata IMU piuttosto che alle altre cose. È evidente che questo ha interessato di più il nostro elettorato che non altro. Se questa è la somma, il fatto che uno degli aspetti che ha prodotto il risultato negativo in termini percentuali è proporzionale al maggior astensionismo, cioè di gente che è andata a votare. La gente non contenta di questo, probabilmente non se l'è sentita di votare altro, salvo chi ha fatto il voto di protesta e ha votato, e quindi non è stata a casa. Secondo Tambini, insomma, la delusione della gente poco ha a che fare con scandali, processi e scelte economiche. Straguadagno però una sua ricetta ce l'ha. Coordinatori, segretario e tutta la dirigenza devono farsi da parte. Tutta la classe dirigente che ha fallito, quando si ha una sconfitta di queste proporzioni e alla vigilia, a poco più di un anno delle elezioni politiche, si mettono in discussione. Io mi sarei aspettato almeno delle dimissioni formali. Quando ho sentito che la risposta sulla domanda di un giornalista, ma le ritieni di dare le dimissioni, è stata nessuno me le ha chieste, beh, ho detto allora gliele chiedo io, e gliele chiedo in modo esplicito, ma non solo ad Alfano ma a tutti quanti. Perché o noi discutiamo sulle ragioni profonde per le quali gli elettori del centrodestra hanno punito tutto il centrodestra e hanno punito anche la Lega che non sostiene il governo Monti, per cui il governo Monti non c'entra in queste decisioni. O noi rimettiamo in piedi la nostra proposta, ma in modo serio, sapendo che dobbiamo realizzarla, e questo comporta una rivoluzione, o altrimenti siamo destinati a essere spazzati via da coloro i quali ci hanno votato, nel momento in cui o non andranno a votare le politiche, oppure, e questo io mi auguro, ci sarà una opzione, un'offerta politica seriamente liberale, liberista e riformatrice, visto che quella del PDL oggi non lo è. Di diverso avviso l'onorevole Fabrizio Cicchitto, uno dei tre coordinatori, molto critico su un possibile rinnovo della classe dirigente. Il voto negativo derivato, uno, dal fatto che è caduto il governo Berlusconi e quindi noi ci siamo trovati in una situazione di grande difficoltà. È sopravvenuto un governo tecnico che ha rappresentato uno stato di necessità e nello stesso tempo però ha rappresentato anche una stretta nella vicenda economica e finanziaria del Paese, e quindi questo è stato un fattore determinante. A questo punto ci stanno due nodi. Un nodo è se si riesce a costruire un sistema di alleanze. Il nodo dei contenuti è se, intrecciata con una inevitabile politica di rigore, però si riesce a riprendere il filo della crescita. Chi sarebbero i nuovi volti, come le si elegge, sono, mi rendo conto, delle sortite che fanno effetto ma che lasciano il tempo che trovano. Poi la riflessione sul come deve riorganizzarsi il PDL, quali innovazioni vanno introdotte, è una riflessione aperta, ma non con colpi di teatro che azzerano tutto mettendo non si sa bene poi chi. L'analisi, anche dal punto di vista degli elettori, nelle parole del professor Roberto Dalimonte, ordinario di scienza della politica. Gli elettori moderati in questo momento sono disorientati. per lo più non vanno a votare. Quello che potrà succedere da qui al 2013 non so, ci sarà sicuramente il tentativo di lanciare un nuovo prodotto che possa attirare i consensi in quest'area. Io non credo che il PDL sparirà, però credo che non riuscirà a ottenere di nuovi consensi di cui ha goduto. Ricordiamoci che 4 anni fa il PDL aveva alla Camera il 37% dei voti. A queste cifre il PDL non tornerà più. Era Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con un reportage di Cristina Carpinelli sulla memoria delle vittime e ritorno al terrorismo dopo i fatti di Genova.